America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Un F-15I dell'aviazione americana è precipitato in Libia ieri per un guasto meccanico. I due piloti si sono salvati, sono già nelle mani delle forze armate americane, ma questo episodio non ha aiutato la linea politica del presidente Obama, che continua a promettere che nel giro di qualche giorno si potrà uscire dalla Libia. Non l'ha aiutato perché tutte le reti americane si sono occupate di questo incidente e hanno fatto sentire, per esempio, interviste, voci con piloti che sono stati abbattuti prima. Sentiamo la storia di Scott O'Grady. I had paramilitaries that were walking by me, sometimes very nearby within the first few days. Scott O'Grady, un pilota abbattuto nel 1995, racconta per esteso la sua avventura. È stato abbattuto in Bosnia, si è nascosto per 6 giorni. Si muoveva di notte, dormiva pochissimo, forse 20 minuti di giorno, insomma un racconto un po' anche strappalacrime, se vogliamo, ma un racconto che solleva qualche punto interrogativo in America. Barack Obama è stato costretto alla difensiva. È vero che si potrà chiudere questa operazione nel giro di pochi giorni? È vero che il comando passerà agli alleati? Sentiamo il presidente. We will continue to support the efforts to protect the Libyan people. But we will not be in the lead. That's what the transition. Ieri, prima di rientrare in America nella conferenza stampa finale del suo viaggio sudamericano in El Salvador, Barack Obama ha detto che la missione terminerà molto presto, forse un giorno, due, forse al massimo 3 giorni, e ha sottolineato che comunque è stata evitata una crisi umanitaria. C'era il rischio che Gheddafi compisse un massacro. Il presidente ha confermato che una volta che questa prima parte della missione sarà terminata, gli Stati Uniti faranno un passo indietro, non ci saranno più i nostri aerei, ha detto, non ci saranno più le nostre navi, il comando passerà agli alleati, passerà soprattutto alla NATO. Quel che colpisce è la resistenza di Gheddafi, che nonostante gli attacchi continua, secondo fonti del Pentagono, nella sua avanzata e nel suo tentativo di riprendere alcune delle cittadine in mano ai ribelli. I giorni passano rapidamente e la parola del presidente Obama a questo punto è in gioco. Dalla politica all'economia, anzi alla finanza, torniamo sull'acquisizione, ve l'avevo anticipato ieri, da parte di AT&T, della T-Mobile, da Deutsche Telekom. Perché questa acquisizione? Beh, intanto perché in 4 anni l'AT&T ha verificato un aumento dell'8000% del traffico dati su internet. E dunque, acquistando T-Mobile, proprietà tedesca di Deutsche Telekom, per 39 miliardi di dollari, che è il quarto operatore cellulare in America, l'AT&T diventerebbe il protagonista numero uno, con la possibilità di capitalizzare su questa crescita. Nessuno immaginava che la Germania con la Deutsche Telekom avesse attività patrimoniali per 39 miliardi di dollari soltanto in questa società. Beh, ce le ha ovviamente su molti altri fronti, e lo stesso devo dire succede per altri paesi come Francia, Gran Bretagna, che hanno forti investimenti diretti negli Stati Uniti. Noi siamo un po' il fanalino di coda dei grandi europei. Ai microfoni di America 24, Luigi Zingales, professore di economia a Chicago. Ecco, una reazione a caldo: perché gli altri paesi europei sono così presenti all'estero e soprattutto in America e noi lo siamo molto meno? Beh, questo riflette un po' la struttura industriale del nostro paese. Noi siamo il paese della piccola e media impresa, più piccola che media, e la piccola e media impresa a creare delle associate all'estero o comprare all'estero, soprattutto delle partecipazioni importanti come quella di cui parliamo, di Deutsche Telekom. Ecco, in questo contesto noi amiamo dire ogni tanto che magari in Europa ci sono regole vecchie, c'è un po' di campanilismo, ci sono protezioni del mercato. Poi però vediamo che anche in America succede un po' la stessa cosa. Per esempio, ieri Dan Hess, l'amministratore delegato di Sprint, ha attaccato l'operazione AT&T, ha detto che sarà un'operazione, se andrà in porto, che bloccherà l'innovazione, che danneggerà i consumatori, e dunque cercherà, attraverso sue risorse di lobby, di bloccare questa operazione. Sappiamo che l'AT&T da parte sua ha speso 15 milioni di dollari in lobby e lobbisti. Ecco, è forse un modo diverso rispetto al nostro di influenzare la politica? Non dobbiamo tenerne conto? No, è sicuramente un modo diverso a cui noi non siamo abituati, nel senso che in genere i nostri rapporti politici sono rapporti più personali. Qui invece viene fatta una battaglia che sia una battaglia di lobbying, ma anche una battaglia di lobbying fatta su dei principi di interesse generale, come ad esempio quello dell'innovazione, come quello della competizione, di fare il meglio per i consumatori. Quindi si impara qualche cosa da questo processo di lobby, non è semplicemente un patronaggio politico. Ecco, a noi manca, secondo te, la lobby, diciamo, trasparente? Sicuramente, ma non solo manca la lobby trasparente, manca la lobby fatta sui fatti e non semplicemente sulle amicizie. E per questo i politici italiani o le imprese italiane falliscono non solo all'estero in generale, ma anche all'interno dell'Unione Europea, perché a Bruxelles vediamo come il lobbying viene fatto sempre più nel modo anglosassone, e questo sicuramente è un elemento di svantaggio comparato rispetto agli altri paesi. Ecco, vogliamo spiegare un pochettino che cos'è la lobby? Tutto nacque dal Willard, il grande albergo di Washington, dove si trovavano politici, uomini d'affari, nella lobby, appunto, nell'ingresso dell'albergo, e dunque ciascuno cercava un po' di influenzare l'altro. Come possiamo spiegarla ai nostri ascoltatori? Quello che bisogna capire è che in una democrazia avanzata le scelte che i rappresentanti eletti del popolo devono fare sono spesso molto complesse, richiedono molta informazione e hanno dei forti effetti non solo economici, di efficienza, ma anche di redistribuzione. E quindi in una democrazia è giusto che ci sia una specie di persone che portano il loro punto di vista per cercare di indirizzare la politica economica. Se tutte le lobby fossero adesso le stesse risorse, questo porterebbe sicuramente al risultato più ottimale, nel senso che i politici verrebbero informati dai diversi punti di vista e poi sceglierebbero sulla base delle informazioni che hanno ricevuto. Un po' è come in un processo all'americana in cui gli avvocati delle varie parti perorano la propria causa e poi il giudice decide in base agli elementi che vengono portati dagli avvocati dell'accusa e dagli avvocati della difesa. Ecco, per chiudere, torniamo al caso tedesco, al caso ATT. Qual è la tua posizione? Sicuramente questa fusione aumenta fortemente la concentrazione di mercato e può avere delle conseguenze negative sul consumatore. La cosa che fa un po' ironia è che improvvisamente i manager di un'impresa si riscoprono difensori dell'interesse dei consumatori quando il loro lavoro è a rischio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Se n'è andato Joe Willie Pinto Perkins, leggendario pianista blues. È morto, devo dire, a 97 anni, grandissima carriera chiusa con una conquista leggendaria. È stato il cantante più anziano a vincere un Grammy Awards per il miglior album blues tradizionale. Dunque sentiamo di Pinto Perkins, Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord. People look where the sun done gone. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.